Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci qua. Ormai parliamo di Kessler come al solito. Sì. Eterozigote. Queste settimane un po' corte, un po' lunghe, eccetera. Un po' fredde, un po' grigie. Io mi sento già sabato, invece siamo a giovedì. Mamma mia. E sabato è un miraggio ancora. Scuola di risparmio. Scuola di risparmio. Allora, oggi tanti temi finanziari molto interessanti, perché questo maggio, che è grigio dal punto di vista meteorologico, in realtà è molto vivace dal punto di vista finanziario. Tanti gli argomenti. Oggi la seduta è molto buona in Europa. Siamo alla vigilia delle presidenziali francesi. Ieri sera il grande dibattito televisivo tra Macron e Le Pen, ma non è questo il tema che oggi influisce in borsa. Ieri sera abbiamo avuto la riunione della Banca Centrale Americana e un nuovo aumento dei tassi di interesse forse in giugno. E poi, Nicoletta, lo sai che a maggio c'è il detto sell in May and go away? Sì. Qua ci sembra che quest'anno non ci sia nessuna intenzione di vendere, perché i mercati ancora galoppano, viaggiano sui record. Abbiamo una marea di argomenti da affrontare oggi ad Investire Informati. Ricordo solo velocemente, poi andrò nel dettaglio, che tra due settimane io e te facciamo l'ennesima trasferta. Lunedì e martedì ne facciamo una. Vicina. Settimana successiva ne facciamo un'altra, un po' più lontana, a Rimini, all'IT Forum, all'International Trading Forum. E andremo di piadine di temi finanziari anche là. Abbiamo due convegni a cui parteciperemo insieme. Mi dopo porti mi anche a ballare tutto. O no? Un po' di mazzurchina? No, ma certo, se non andiamo a ballare a Rimini. Perfetto. Allora io mi preparo. Benissimo, questa è la mia ricetta del giorno. Preparatevi anche voi, state con noi, la puntata si preannuncia ricca di spunti e di novità, come sempre interessanti, ci auguriamo, e come dice il proverbio, non si finisce mai di imparare. A proposito, speriamo che medici e ricercatori imparino in fretta a liberarsi dalla Candida auris, un micete lievitiforme, un fungo, per dirla con parole semplici, di cui sono certa avrete sentito parlare o di cui avrete letto sui giornali, perché in queste ore il suo identikit sta facendo il giro del mondo. C'è una vera allerta. I centri per il controllo e la prevenzione delle malattie statunitensi l'hanno definito una minaccia globale per la salute, dato che è estremamente contagioso e presenta anche un'elevata mortalità. Non è la prima volta, a dire il vero, da quando è stato individuato in Giappone nel 2009, che il fungo fa scattare l'allarme rosso, ma questa volta sembra che l'asticella sia un pochino più alta. Dall'Oriente è migrato in America e poi in Europa, e noi ci chiediamo allora quali saranno le sue prossime mosse e soprattutto riusciranno a fermarlo, a neutralizzarlo? In linea con noi abbiamo il professor Massimo Andreoni, professore di malattie infettive all'Università Tor Vergata di Roma, che è tornato a trovarci. Buongiorno professore, meno male. Buongiorno a lei e agli radioascoltatori. Allora, professore, dopo i superbatteri arrivano i superfunghi e probabilmente non è un caso, ma andiamo per ordine. Partiamo con la carta d'identità, che ci permette di raccogliere informazioni. Io gliela butto lì e lei ci la completa. Nome, Candida auris, fungo, professor Andreoni. Sì, esattamente, è un fungo. Io devo dire che in questi ultimi anni noi sempre più frequentemente osserviamo infezioni gravi dovute a funghi, soprattutto in soggetti che sono nelle età estreme della vita, quindi bambini o soggetti anziani, e in soggetti che sono predisposti alle infezioni, quindi immunodepressi. Ecco, questa è la categoria di persone più comunemente colpita. Queste infezioni sono nella maggior parte dei casi dovute a candide, quindi la Candida auris appartiene alla specie delle candide, che è molto più numerosa, che sono proprio i funghi che più comunemente danno infezioni negli esseri umani. I funghi sono un po' ovunque, vivono nell'ambiente in generale, sono microorganismi che si trovano dappertutto, professor Andreoni. Sì, i funghi sono presenti abbondantemente nell'ambiente, ma sono anche presenti sempre nel nostro corpo. Quindi noi la candida di cui stiamo parlando la possiamo trovare abitualmente nel cavolare, nell'intestino, sulla pelle, a livello delle vie genitali. Quindi fanno parte della nostra flora abituale e che ogni tanto diventano cattive, diciamo. Professore, lei mi parla di candida, quindi della candida comune. Il mughetto è una candida, professore? Sì, esattamente. Il mughetto, prego. Ma che differenze c'è tra questo, il superfungo, la candida auris, e la candida comune? Soprattutto, ci sono dei test capaci di individuarlo o si rischia di confonderli? Dunque, sì, ovviamente tra le candide ci sono la albicans, che già dal nome dà l'idea che possa essere un po' meno cattiva, e ce ne sono tante specie diverse. Diciamo, questa candida auris, che è diciamo alla ribalta in questo momento, ma come lei giustamente ha detto è da un po' di anni che gira, calcoli che negli ultimi 12 mesi solo negli Stati Uniti ha dato più di 60 casi con una mortalità superiore al 50%, quindi è un vero e proprio killer, diciamo, in cui quando dà delle forme setticemiche, quindi quando riesce a entrare nel sangue, effettivamente diventa estremamente pericolosa. Però è un qualche cosa che in questo momento, se Dio vuole, è confinato alle persone che sono ospedalizzate, quindi sono le persone che stanno in ospedale, anche se già qualche caso si segnala anche nelle case di lunga degenza, quindi le case di ricovero per gli anziani, ecco, quindi sta già uscendo dall'ambiente ospedaliero, però per adesso è lì. Diciamo, l'isolamento e il riconoscimento è un pochino complesso, cioè è facilissimo isolare la candida e dire che quindi questa l'abbiamo isolata. Riconoscere la tipologia della candida, in particolare riconoscere l'auris, è un pochino più complesso, e quindi i laboratori, solo quelli più attrezzati, riescono a fare questa distinzione. Ma esatto. Professore, in pratica si sta verificando una situazione che è molto simile a quella dei superbatteri, che come sappiamo sono diventati sempre più resistenti agli antibiotici. Che tra le due cose ci sia un legame, come a dire, professor Andreoni, che resistenza chiami resistenza? Beh, sì, diciamo, questo è quello che succede, diciamo. Effettivamente che cosa accade? Che quando noi diciamo prendiamo degli antibiotici, noi togliamo di mezzo la maggior parte dei batteri che convivono dentro di noi accanto ai funghi, e quindi lasciamo lo spazio che il fungo possa prendere una maggiore capacità di crescere, diciamo. E quindi si crea una prima condizione, cioè che noi, in cui abitualmente siamo trasportatori di questi funghi, diventiamo molto più contaminati da questi funghi. Il secondo meccanismo è quello della resistenza, che è un po' simile a quello che succede tra i batteri e gli antibiotici, cioè noi utilizziamo ormai nella pratica clinica spesso per molti pazienti farmaci antifungini, quindi che sono in grado di uccidere i funghi, e quindi inevitabilmente accade che poi questi funghi, per sopravvivere, imparano a diventare resistenti. Candida auris, alcuni ceppi di Candida auris sono diventati resistenti a tutte e tre le classi di farmaci antifungini che oggi abbiamo a disposizione, quindi non sappiamo come trattare questi pazienti. Professor Andreoni, la storia insegna, mi scrive su WhatsApp un ascoltatore, non svegliare il can che dorme. A proposito, immagino, della resistenza, dell'uso eccessivo degli antibiotici che ha reso i batteri dei superbatteri. Ma che cosa è importante ricordare, soprattutto evitare di fare, professor Andreoni? Beh, la prima cosa è quella che ha detto lei, cioè dobbiamo usare gli antibiotici. Che donna solo di buon senso, professor Andreoni. Ma cosa ce ne facciamo di tutto questo talento? Ma io, come sempre. È incontenibile. Come sempre. No, effettivamente la prima cosa è evitare di prendere i farmaci e gli antibiotici che in qualche modo favoriscono i funghi, come abbiamo detto prima, quando devono essere presi, solo quando realmente servono. La seconda cosa è avere una buona igiene personale, perché si sta a dire i funghi sono già sopra di noi, dentro di noi, e quindi l'igiene, se si pensa per esempio al livello delle vie genitali o quant'altro, diventa fondamentale. Quindi lei è della teoria del che lavarsi fa bene, perché sa che adesso non è tanto popolare, adesso sembra che sia meglio, no? Lasciar passare giorni, se non settimane. No, io non sono d'accordo. E soprattutto, diciamo, il lavaggio delle mani. Devo dire che poi in qualche modo quello che sta accadendo, e che vale anche per Candida auris, è un qualche cosa di inevitabile. Noi abbiamo pazienti sempre più fragili, utilizziamo i farmaci per salvare loro la vita, e in questo paghiamo questo scotto, diciamo, ecco. Però dobbiamo farlo con molto raziocinio, ecco, questo sì. Professore, un'ultima domanda rapidissima prima di lasciarla andare. Abbiamo parlato di funghi, un ascoltatore mi scrive su WhatsApp che sta utilizzando un prodotto per i funghi delle unghie, dei suoi piedi, e se questo, l'utilizzo di questo prodotto può in qualche modo renderlo poi, renderli più resistenti e nel caso avere problemi in futuro. Immagino che il messaggio abbia un po' questo, questo certo. significato, perché è piuttosto lungo. Potenzialmente sì, ma questo vuol dire soltanto che uno deve utilizzare questi prodotti anche per combattere le onicomicosi, quindi le infezioni fungine delle unghie, quando realmente servono. Se si deve fare, ovviamente va fatto, per cui diciamo non mi sentirei di dire non lo fare perché rischi di sviluppare resistenza. Fallo se ecco, è necessario. Non sempre però, ecco, a cuor leggero, tra l'altro spesso noi consideriamo, ci facciamo la diagnosi da sole, guardiamo le unghie dei nostri piedi, diciamo ma questa è un po' giallina, sarà un fungo, prendiamo il prodotto, quindi magari facciamoci suggerire se è il caso di prendere il farmaco dal nostro medico di famiglia, dal dermatologo, perché i farmaci vanno presi solo quando sono necessari, perché se no... Certo, oggi dice solo cose giuste. Ma quindi... professore, venga di più, la porto anche a casa con me. Grazie professore, niente, buona giornata. Grazie a voi. Buongiorno, noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Andiamo. E poi ti porto, restiamo in America. Bene, ci vengo sempre volentieri. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta... Cuore e denari. Tuo fa l'americano, americano. Te l'ho promesso, eccoci qua. Tu sai che ci vado sempre volentieri. Tu hai un debole? Eh sì, sono pronta a ripartire peraltro. Allora, sta partendo e sta guadagnando grande successo un libro fresco di stampa che si intitola Il cervello affamato, è firmato da un ricercatore... Beh, americano, qua ci però, vorrebbe un domandone. Ecco, non sappiamo. Secondo Deborah non è tanto americano, almeno a sentire il a leggere il nome, che non, io non so pronunciare. Proviamo Stefan Gainet. Scritto Guyenet. Esatto. Magari il nostro ospite lo sa, glielo lui teniamo lo sa di pronto. Allora, che cos'è questo libro? Si intitola Cervello affamato. Sono un bel tomazzo, 300 pagine, in cui l'autore, che è un neurobiologo, spiega le ragioni che ci spingono a mangiare anche quando siamo sazi. Sarà capitato sicuramente anche a voi, a noi è capitato tante volte di mangiare, sbocconcellare, spizzicare qualcosa senza proprio avere fame, no? O meglio, non solo per la fame. Le occasioni non mancano, sono tante, sono diverse e così sono diversi i motivi che ci spingono a farlo e che noi usiamo un po' come giustificazione. Sono così goloso, oppure sono stressato, ero stanco, ero un po' giù di corda, mi mancava l'energia, sono triste. Esatto. Ecco. E vai di cioccolata. E vai, e vai, e vai. Invece noi siamo molto contenti perché in linea con noi è tornato a trovarci un medico... che ci piace molto, è un profondo conoscitore dei comportamenti alimentari, è anche uno psichiatra ed è nutrizionista. Domandone chi è? È Stefano Erzegovesi. È Stefan Gainet. Che è tornato a trovarci del San Raffaele di Milano. Dottore, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah. Buongiorno. Allora, questo neurobiologo sarà veramente americano perché con questo cognome non ce la dice tutta. Però potrebbe essere francese. Potrebbe essere francese, Guyenet. Allora, comunque, a suono, comunque il titolo è quello che è importante, il titolo è Il cervello affamato. Dottore, si mangia con la bocca, ma a spingerci a farlo, a dare il là, è il nostro cervello, che è il vero direttore d'orchestra. Ma anche lui, in alcune situazioni, invece che usare la testa, usa la pancia, o meglio, invece della razionalità e della consapevolezza, si fa guidare dall'intuito e dall'istinto. Questa è un po' la tesi del collega americano-francese che dir si voglia, che ha proprio per altro, è un oggetto, cioè è una posizione che viene condivisa da un nutrito filone, da un nutrito studio di ricerche. Sicuramente, ma il punto da cui partire è verissimo che comunque la fame e la sazietà nascono e crescono nel cervello. Noi siamo portati ad attribuirle a quello che succede nella nostra pancia, ma sono a tutti gli effetti delle funzioni che anche da un punto di vista proprio del funzionamento biologico nascono nel cervello. Sì. Ma proprio perché nascono nel cervello, nel momento in cui noi seguiamo quello che è un istinto, e appunto, ma l'istinto poi sano è un istinto di sopravvivenza, per cui noi mangiamo e ci saziamo con le cose che ci servono. Mm. Il problema è quando un cervello, ma a questo punto diventa un cervello sofferente, allora non parliamo più di fame biologica, di fame normale, di fame fisiologica, ma parliamo di quella che si chiama fame emotiva. Sì. E la fame emotiva è una fame che fondamentalmente nasce dal cervello, ma nasce da un cervello che, diciamo, un cervello che non sta così bene in quel momento della sua vita. 800 24 00 24, se volete intervenire per capire se quella strana cosa che vi spinge a mangiare quando in realtà siete già sazi è una fame emotiva o una fame che racconta altro. Il dottor Erzegovesi naturalmente è a vostra disposizione. Dottore, oggi il giovedì per Cuore Denaro è il giorno di investire informate, parliamo di educazione finanziaria, ma anche per la parte del cuore, della salute, noi ci siamo dati molto da fare in questa direzione. Abbiamo dedicato tante puntate ai progetti legati all'educazione alimentare per costruire, come dite voi, una buona relazione con il cibo. Una relazione che nasce o dovrebbe nascere, dottor Erzegovesi, lo sappiamo bene, sin dai primi anni di vita. E, assolutamente, sì, da bambini. Esatto, e l'autore va dritto al sodo, come piace a noi, suggerendo nel suo libro alcuni consigli, soprattutto segnalando quelle trappole su cui inevitabilmente ciascuno di noi ci è caduto o ci cadrà. Ve ne dico qualcuna, ad esempio promettere al bambino: se fai il bravo dai che poi usciamo e compriamo il gelato, vieni qui non piangere, ti do il cioccolatino, il biscottino, la caramella. E siamo venuti tutti grandi così e così continueremo a fare con i nostri bambini. Lo so che sarà sbagliato, dottor Erzegovesi, ma... Diciamo che è umano, ma che sicuramente collegare un elemento nutritivo a un premio, una punizione, come dice giustamente l'autore del libro, è sicuramente qualcosa che facilita una confusione, nel senso che a quel punto noi non sentiamo più quello che effettivamente la nostra pancia ci chiede, ma sentiamo quello che invece viene ad essere collegato appunto a uno stato emotivo, che poi fondamentalmente è uno stato emotivo di premio, di gratificazione. Quindi ai bambini si dovrebbe evitare, almeno se avete dei bambini a casa piccoli, cercate di evitare di associare il cibo a un premio, a una gratificazione. Io in generale consiglio: associamo il premio alla gratificazione con qualsiasi altra esperienza di contatto, dove per esperienza di contatto intendiamo facciamo qualcosa assieme, che può essere ovviamente una cosa bella fatta assieme, ma possibilmente, ma senza farci venire l'ossessione, come sempre, bravo, possibilmente non facciamola diventare però una regola il fatto che tutto ciò che è gratificante passa per qualcosa che si mette in bocca. Può passare per un abbraccio, può passare per andare insieme al cinema senza i popcorn, può passare anche per anche le parole nutrono, dottor Erzegovesi, fare un momento in cui ci si dà un momento per stare assieme. Quello è a tutti gli effetti un nutrimento, ma è un nutrimento non alimentare. Allora, un ascoltatore ci scrive: a me da piccola al massimo davano due sberle, non le caramelle. Mamma mia, quindi questo significa che quando sono di umore così così e tu mi chiami e mi dici andiamo a prenderci un caffè, sbaglio, devo dire di no. Devo dire, ma no, un caffè va bene. Ma oggi è la mia giornata, vedi? Vero, il caffè va bene. Non è il caffè, ma il fatto che si sta insieme e c'è un momento dove fondamentalmente si stabilisce una relazione che a tutti gli effetti è una relazione nutriente. Non è il caffè, è l'amico. Una relazione nutriente. È l'amico, il mio nutrizionista, che potrebbe essere anche l'amico. Nico, amico, vabbè, il mio nutrizionista mi ha detto che mangio non per fame ma per noia, ci scrive Marco. Sarà vero? Come facciamo, dottor Erzegovesi? E anche lei mi deve spiegare, oltre ad aiutarci a capire di che tipo è la nostra fame, ci deve spiegare perché tutte le cose che ci piacciono e di cui ci viene voglia sono sempre le più caloriche. Insomma, nessuno deve resistere alla tentazione di dire tenetemi, voglio un piatto di finocchi bolliti, non ce la faccio più. Non com'è questa storia, dottor Erzegovesi? Diciamo che sicuramente l'ascoltatore parlava di noia. Tra le emozioni negative che ci fanno mangiare in maniera emotiva c'è la rabbia, c'è la tristezza, c'è la delusione e c'è anche la noia, c'è un senso di vuoto che in qualche modo va riempito. Rispetto al cibo che ci piace, io secondo me sul concetto di piacere lo dividerei in due parti, nel senso che c'è un piacere che è un piacere che ha un effetto duraturo, per cui una cosa che mi piace e che mi soddisfa a lungo, c'è invece un piacere che è più vicino, se vogliamo, al piacere che danno le droghe, che invece è un piacere molto concentrato nel tempo e molto corto come durata. Le cose che ci piacciono ma che tendono ad avere un effetto così estremamente concentrato, estremamente breve, sono cose che più facilmente hanno un effetto, diciamo, tra virgolette, drogante, cioè un effetto per cui noi nel momento in cui le mangiamo siamo spesso portati a rimangiarle. Tipicamente gli alimenti con tanto sale, tanto zucchero e tanto grasso, contemporaneamente a maggior ragione, sono alimenti che possono evocarci un piacere, che però è un piacere, diciamo così, troppo veloce per essere gestito poi dalle nostre emozioni. Vedi, meglio la Nico col caffè. Paola, buongiorno da Milano. Paola, voleva raccontarci una testimonianza sul cervello affamato, mentre, dottor Arzegovesi, lei dovrebbe aiutare un nostro ascoltatore che ci scrive come capire che la fame del nostro bambino è una fame emotiva. Dottor Arzegovesi, può dare questa indicazione ai genitori? Sì, assolutamente. La cosa abbiamo che un io minuto consiglio, e venti. Velocissimi. Per definire quanto può essere fame emotiva e quanto no, la prima cosa che si consiglia è dare dei tempi al bambino, cioè aiutarlo a mangiare insieme mettendoci più tempo, cioè non permettendogli di mangiare in maniera troppo rapida e troppo vorace. L'altra cosa fondamentale è darsi del tempo, nel senso di facciamo qualcosa prima di darti il cibo che mi chiedi. Se io faccio qualcosa prima, mi distraggo e come per magia la mia fame sparisce, è sicuramente una fame emotiva. Se io invece faccio qualcosa, mi muovo, mi coinvolgo in un'altra attività e comincio comunque continuo ad avere la sensazione che questa fame rimane, è più facilmente invece una fame reale e fisiologica che in un bambino chiaramente che sta crescendo può essere una fame molto più intensa della nostra. Quindi dare tempo. Alessandra ci scrive: non mi sento mai sazia, come posso fare? Immagino che la risposta richieda tanto tempo, dottor, un pochino più articolata, chiediamo ad Alessandra di scriverci, ma una battuta, dottor Arzegovesi? Battuta velocissima: se non mi sento mai sazio, prima cosa, forse sto mangiando troppe poche fibre, quindi domandiamoci se non stiamo mangiando cibi troppo raffinati e che quindi per loro natura sono concentrati ma ci danno una sazietà molto fugace. Grazie al dottor Arzegovesi, GR di Nuovo Insieme. Il segnale orario vi è offerto da Pantera di Infracom, è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova, pantera.it, col TH. Ah-ha! Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Cuore e denari. Tu metti sempre accendo il mutuo e io invece quando me tu mi sei più rock. Com'è che diceva Celentano? Rock o lento? Vabbè. Vedi, anche oggi mi è venuta anche la parola, ma è la mia giornata. Ti allora, devo legare qua. Oggi siamo sei tornati insieme. Sale la pressione per il nuovo appuntamento di Investire Informati. C'è un brivido che mi corre lungo la schiena. Ma abbiamo già anche l'ospite qua in studio. C'è che già. Che non mi mette pressione. No, lui no, ma perché lui la calma, direi. Comunque. Allora, io voglio parlarvi di pressione, ma voglio farvi una domanda. Destro o sinistra? La faccio anche a te, che sei la signora dei domandoni. Non rispondere, perché io ti faccio aiutare da un tuo amico, il professor Borghi, direttore dell'unità operativa di medicina interna al Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna e presidente della Fondazione Italiana dell'Ipertensione. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a voi e grazie infinite per l'invito. Cercherò di non mettere paura come al solito, ma non è nella mia natura mettere paura. Non ce la faccio. Allora, destro o sinistro, qual è il braccio migliore per misurare la pressione? Ci torniamo, perché ieri la pressione l'abbiamo nominata un centinaio di volte parlando di colesterolo, perché abbiamo capito, professore, che un valore chiama l'altro, perché chi controlla il colesterolo, poi il medico gli misurerà la pressione per capire, avere un quadro generale della situazione, dovrà confrontare un po' i numeri, un po' come fa Deborah quando guarda i mercati o i suoi esperti, per dare un quadro un po' del chi sale e chi scende. Anche questo è un investimento in fondo. Nella maniera più assoluta, ci sono due motivi fondamentali. Il primo è il motivo di richiamo che lei ha sottolineato, importantissimo. Se io ho qualche cosa che non va, in generale poi questo qualche cosa fa sì che vada a guardare anche alcuni aspetti collaterali, e colesterolo e pressione sono fortemente legati. Un altro aspetto invece forse più legato alla ricerca scientifica, ma ormai assodato, è una correlazione diretta fra livelli di colesterolo e ipertensione, per cui in generale chi è severamente ipercolesterolemico tende ad avere una maggiore prevalenza di ipertensione. Per cui è fondamentale che le due cose si muovano in coppia, così come i mercati di Deborah. Vedi. I miei personali. Allora, professore, misuriamo questa pressione. Chi deve farlo soprattutto? Sostanzialmente chiunque, nel senso che non esiste qualcuno deputato a misurare la pressione, se non probabilmente in prima istanza il medico, medico di medicina generale, è certamente il soggetto che ha maggiore capacità di farlo per definire se esiste o meno un problema a ipertensione. Una volta che abbiamo definito che esiste o che non esiste, chiunque ha diritto di misurare la pressione, sia la propria pressione sia quella altrui, il che vuol dire il paziente stesso, i familiari, il medico, il farmacista, non ha molta importanza. L'importante è avere una valutazione relativamente sistematica dei valori di pressione per comprendere come si modifica, sia che i valori siano normali e verranno misurati a intervalli maggiori, sia se i valori sono patologici verranno naturalmente misurati a intervalli più ravvicinati. Questa è la differenza sostanziale, il numero di misurazioni che dobbiamo fare, non chi le deve fare. Allora andiamo a questo braccio, destro o sinistro, professor Borghi? Sì, le due braccia sono diverse, questo è un punto centrale, perché molto spesso i miei pazienti mi dicono: ma per la verità se lei me la misura a destra io la misuro sempre a sinistra. Effettivamente esiste una differenza tra le due braccia che non è una cosa empirica, ma è una cosa anatomica. Le arterie che si staccano dal nostro arco della aorta e vanno alle braccia, quindi quelle che trasportano la pressione, sono diverse a destra e a sinistra, sono fatte in maniera diversa, per cui a destra in generale c'è una connessione più diretta, diciamo c'è un tubo più diritto e quindi la pressione tende a essere un po' più alta a destra e un po' più bassa a sinistra, nell'ordine di fino a 10 mm di mercurio per la pressione massimo e fino a 5 mm di mercurio per la pressione. Però noi facciamo finta di niente o scegliamo il braccio più comodo? Noi in generale, se ci sono differenze sistematiche, dovremmo seguire, valutare sempre il braccio in cui la pressione è più alta. La cosa importante per questione di praticità è quella invece di determinare, di battezzare un braccio come il nostro braccio dominante e seguire le variazioni della pressione a quel livello. Probabilmente è molto più importante avere un sistema di riferimento stabile, per cui tutto ciò che noi facciamo possa essere riferito a uno storico, piuttosto che balzellare da un braccio all'altro, per cui non sappiamo più se quello che avviene è dovuto al nostro intervento o alla differenza tra le braccia. Professore, gli possiamo dare questi valori così ce li ricordiamo? Valori sono estremamente pragmatici, 140-90 è il limite superiore della normalità, quindi la pressione deve stare al di sotto di 140-90, meglio ancora se sta al di sotto di 130-80, con una attività, un valore più stringente nella popolazione diabetica. Fondamentalmente negli anziani invece possiamo scontare 10 mm di mercurio più in alto, quindi fra 140 e 150 per la massima ancora la possiamo considerare nei limiti di normalità, mentre il livello di guardia di 90 millimetri di mercurio per la minima vale praticamente indipendentemente dall'età. Professor Borghi, ci preoccupiamo sempre dei livelli della pressione quando si alzano, perché diventa un fattore di rischio. Parliamo sempre poco, è vero, di chi invece ha la pressione bassa e fa fatica. Ci scrivono anche degli ascoltatori, tra cui Roberto, ha battuto tutti. Soffro di pressione bassa al mattino, quando mi alzo spesso barcollo, cosa posso fare? Ma niente di particolare, la pressione bassa di per sé... Non date grande soddisfazione a chi ha la pressione bassa, anch'io sono alla pressione bassa, mi dicono è la malattia di chi non muore mai. Ma sostanzialmente sì, sostanzialmente sì. La pressione. Pensa quanto è... mi devi sopportare. Sì, la cosa di assicurazioni. Ce l'ho anch'io, non particolarmente alta. Ci spareranno. Essendo più grossa di te. Professor Borghi, scusi, l'abbiamo interrotta. No, per carità di Dio, voi avete il diritto di farlo sempre, anche perché so che avete sviluppato un'abilità nel trattare questi argomenti che offusca quella che io posso. Prima o poi non vi inviteremo più, faremo tutto da sole. No. Però io parlerò di mercati, mi potrò permettere di parlare di azioni. Va bene, la pressione bassa è certamente un grande patrimonio. L'unica cosa che dobbiamo escludere è che nei pazienti trattati farmacologicamente la pressione sia bassa in ragione di un eccesso di terapia farmacologico, di terapia medica, perché questo oggi avviene soprattutto negli anziani con maggiore frequenza. Ma se si tratta di un paziente giovane, di qualcuno che costituzionalmente ha la pressione bassa, è un grande patrimonio che deve conservare. Capisco che il mattino diventa un pochino più difficile carburare, capisco che magari i movimenti rapidi, soprattutto abbassare e rialzare la testa di scatto, non sono così immediati come in chi ha valori di pressione più elevati, ma quello che si deriva, quello che si guadagna in termini pratici è grandissimo. Se il mattino si fa fatica a carburare, un pochino più di caffè, secondo me, che è uno dei miei grandi protetti, potrebbe essere utile. Poi abbiamo anche commentato il caffè, poi abbiamo anche commentato uno studio recente sugli effetti protettivi nei confronti del tumore alla prostata. Questa è una cosa che mi interessa naturalmente solo gli uomini, ma insomma il caffè ci piace. A proposito di uomini, ci ha scritto Steve. Salutiamolo. E ci ha mandato anche un po' la sua foto. E ci dà anche la pronuncia corretta dell'altro. Ecco, magari. Non so quanto c'entri con la pressione, però sentendo il professor Borghi parlare di pressione, a Steve è venuto in mente: per uno sportivo quante uova si possono mangiare alla settimana? Inauguro così i messaggi che arrivano, che magari sembrano non avere nessun legame con il tema del giorno, ma vuol dire che noi accendiamo pensieri. Professor Borghi, lei è preparato sulle uova degli sportivi? E chissà che pensieri! Scusi professore, lei che mi fa ridere. Oggi abbiamo bevuto non caffè stamattina, evidentemente dell'altro. No, perché siamo in confidenza col professor Borghi. Professore, cosa possiamo dire a Steve? In un mondo dove in generale noi martelliamo la nostra psiche al ribasso, credo che sentire due persone allegre e felici il mattino sia una cosa estremamente positiva. Di solito noi commentiamo in senso negativo anche quello che è positivo, che è una cosa terrificante, avviene sulla maggior parte dei media, quelli che io posso seguire soprattutto la sera, quindi farvi sentirvi così allegre è importante. Ma per le uova non credo che ci sia una dose di uova specifiche per quello che riguarda gli sportivi, non ricordo alcuno sport che si giovi particolarmente delle uova. Gli sportivi forse hanno più bisogno di carboidrati, hanno bisogno di una dieta che sia adeguata all'entità dello sforzo che andranno ad affrontare, hanno naturalmente bisogno di proteine. Le uova sono sostanzialmente una sorgente di colesterolo che è necessario, ma non necessario in misura maggiore per lo sport, perché lo sport non consuma una quantità maggiore di colesterolo, né è necessario per fare sport avere una maggiore sintesi nella quale il colesterolo sia coinvolto. Capisco, insomma, che praticamente Steve può fare un po' quello che vuole, sì, e questo ci la vecchia piace. Immagine di Sylvester Stallone nel Rocky 1 che voi ricorderete, di quel grande frullato che lui fa mettendo uova, ma quella è un'abitudine americana. Gli americani mangiano tonnellate di uova anche se sono obesi di 300 kg e non hanno mai visto una palestra in vita loro, quindi abbiamo anche sistemato gli americani. Vabbè, c'è il reality show. Ma forse Steve ha una origine, anglosassone. Allora, la foto del suo profilo di WhatsApp, devo dire che ci fa pensare ad un americano. Certo. Qui ecco anche il nostro retroscena pettegolo. Va bene, professor Borghi, ma venga una volta qui in studio. Verrò. Adesso verrò a Milano in occasione del congresso della Società Europea dell'Ipertensione. E allora che facciamo la diretta Facebook? Tra l'altro noi siamo in diretta Facebook. Sì, tra un po' partiamo e così la facciamo anche conoscere ai nostri ascoltatori. Finalmente quando potranno questo vederla. Questo appuntamento, dottore? Dunque, alla metà di giugno. Dai, intorno ai nostri compleanni, però, quindi però si prepari anche per regalo. Faccia spostare le tavole rotonde se gliel'hanno messe il mattino, perché deve venire da noi. Troviamo il tempo, non c'è problema, però io voglio sfruttare questo spazio in cui molto cortesemente mi avete incluso oggi per raccontare in due secondi che il 17 di maggio sarà la giornata mondiale dell'ipertensione. Come sempre anche in Italia, la nostra società, la Società Italiana dell'Ipertensione, si organizzerà attraverso gazebi nei centri delle città, proprio per aumentare la sensibilizzazione nei confronti dell'ipertensione. Quindi incominciamo a parlarne tra 2 settimane, ma incominciamo a parlarne. Vedi, noi siamo sempre avanti. Sempre avanti. Sempre avantissimo. Assolutamente. Professor Borghi, grazie, alla prossima. Grazie molte. A voi e buona giornata. Allora, adesso qua ritornare a fare un po' i seri parlando di mercati finanziari, no, non perché non lo siamo stati no, fino a questo momento, ma certo. Naturalmente, però in realtà, guarda, è un approccio che mi piace, perché di questi argomenti bisogna parlare anche qualche volta con un filino di leggerezza per renderli un po' più appetibili, così gradevoli ai nostri ascoltatori. Qualche volta raccontare di mercati finanziari utilizzando un gergo complicato distacca le persone, invece noi proviamo anche con un tono un pochino più leggero ad avvicinare i nostri ascoltatori alle tematiche finanziarie. Come sempre torna ad aiutarci un ospite che, eccolo, guarda come si è rimesso subito in riga, seduto. Prima di presentarlo però vorrei fare la lista della spesa, i temi di cui parliamo stamattina. Perché, Nicoletta, qua l'abbiamo detto, ci abbiamo scherzato, si sta aprendo un mese di maggio piuttosto strano dal punto di vista meteorologico, no? Però è molto caldo dal punto di vista delle notizie di carattere economico-finanziarie. E anche politiche. Abbiamo visto ieri sera il dibattito televisivo tra Marine Le Pen e Macron, Emmanuel Macron, e se ne sono date di santa ragione, è stato molto vivace dal punto di vista delle personalità che hanno tirato fuori i due candidati al ballottaggio per le presidenziali francesi di domenica. Questo è un grande tema a cui il mercato ha guardato tanto, non con grande preoccupazione, perché la borsa francese viaggia sui massimi dal 2008. Tu pensa quanto è preoccupata del nuovo presidente francese. Prima cosa. Poi, oltre alla Francia, anche altri listini internazionali sono sui massimi, in particolar modo Wall Street, il Nasdaq, l'indice dei titoli tecnologici americani, sta toccando un record al giorno senza soluzione di continuità. Quindi anche alla luce di tutto questo, noi stamattina proveremo a capire se quest'anno si concretizzerà il consueto detto del sell in May and go away, vendi a maggio, poi vattene in vacanza tranquillo e ai mercati torni a pensarci a settembre. Abbiamo l'attivismo sul fronte delle banche centrali, l'affollamento delle trimestrali. Da qualche giorno abbiamo anche una novità regolamentare molto importante, perché il Consiglio dei Ministri ha dato il primo via libera al decreto legislativo che corregge le regole MiFID, tema complicato ma che ci esprime cosa indica la direttiva che disciplina i mercati finanziari, che è al suo aggiornamento, alla sua versione 2.0. Le novità entrano in vigore nel 2018, prevedono molti aspetti importanti che sicuramente torneremo a trattare in puntate specifiche del nostro programma. Insomma, la lista della spesa io l'ho fatta, adesso non ci resta che partire con la nostra rubrica del giovedì. Investire informati. Le ho servito un bel piatto, Lorenzo Alfieri, Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management. Ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Leggo buona dai giornali questa mattina che ormai avete deciso ufficialmente di venire via da Londra per la Brexit. Non la metto subito in imbarazzo con questa domanda, tanto lei sta a Milano, non le interessa più di tanto. No comment. Per il momento siamo a Milano. Allora, ovviamente come sempre spazio anche alle domande degli ascoltatori su tutto questo bel piattino di questa mattina, che non prevede colesterolo, mi pare un piatto anche se è pesantuccio direi, ma insomma lo possiamo digerire boccone dopo boccone. 800 24 00 24 per le vostre domande sui temi che vi interessano in particolar modo. Noi nella prima parte ci occuperemo in particolar modo di mercati finanziari e poi faremo il nostro focus sulle novità MiFID nella seconda parte della trasmissione. C'è poi anche il domandone e poi adesso un'informazione di servizio, perché come vi dicevo prima, giovedì 18 e venerdì 19 io e Nicoletta siamo all'IT Forum di Rimini. Sì. L'investment and trading che ci stanno scrivendo. Cosa vogliono sapere? Dove siamo esattamente? E verranno a trovarci. Per venirci a vedere, ovviamente. Come sono queste due belle facce. Esatto. Saremo lì in diretta con il nostro programma, ma ci saremo anche con due eventi, in particolar modo giovedì 18 nel pomeriggio. Il primo si chiama Febbre da Trading. Ci occuperemo di quelle persone che si avvicinano al mondo del trading online in maniera non corretta. Tema che abbiamo affrontato con Nicoletta in diretta a cuore